Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti, eccoci di nuovo insieme per una nuova settimana. Come promesso, il governo ha sospeso con un decreto legge l'acconto della tanto discussa IMU previsto inizialmente per il 17 giugno, questo perlomeno nel caso di alcune categorie di contribuenti, in teoria quelle che dovrebbero essere più in difficoltà a pagare questa imposta. È il caso dell'abitazione principale, definizione sulla quale è sempre importante fare piena chiarezza, non equivale al concetto di prima casa, ma insomma dal punto di vista legislativo la definizione è molto precisa, ma sono stati esentati ad esempio anche gli enti che gestiscono le case popolari, che come forse ricorderete si erano fatti sentire in modo molto deciso per chiedere di non essere accomunati alla stessa sorte degli immobili adibiti ad uso commerciale di impresa, per i quali non ci sono invece purtroppo buone notizie, la tassa resta e scattano anche i temuti aumenti. In attesa di capire cosa succederà settembre, c'è chi auspica una riforma complessiva annunciata dal governo, chi teme che invece non si farà che accumulare tutte le rate in una stangata autunnale. Ebbene, in ogni caso, che tutti vadano a verificare che la categoria in cui rientra il proprio immobile sia effettivamente compresa nel rinvio. Ed è quello che vi aiuteremo a fare oggi a Salva Danaio, facendo il punto su tutte le novità che riguardano l'IMU e che vanno a coinvolgere anche la consegna del modello 730, che come vedremo proprio per questo motivo è stata rimandata. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. IMU, chi la paga? Quindi non ne facciamo oggi il focus sulle esenzioni, indirettamente lo faremo, ma oggi ci focalizziamo invece su tutti quegli immobili che questa scadenza di metà giugno appunto devono rispettarla e soprattutto quanto peserà nelle tasche dei contribuenti interessati. Se non volete intervenire in diretta ci potete chiamare, ci potete scrivere al 349 238 6666, ci potete scrivere l'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, siamo su Facebook, siamo su Twitter e soprattutto siamo in compagnia di Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore. Buongiorno Cristiano, ben trovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E siamo di nuovo anche in compagnia con Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'associazione Geometri Fiscalisti. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Prima di tutto questo però uno sguardo ai mercati finanziari. Prevale il segno più oggi, per fortuna, in Europa. L'Europa parte bene, non è partita invece bene la seduta di nuovo per quella piazza finanziaria che è proprio nell'occhio del ciclone da qualche seduta a questa parte. Per il Giappone, il Nikkei 225 anche questa mattina ha lasciato sul campo il 3,22%, mentre sono positive con rialzi di oltre mezzo punto percentuale Parigi, Francoforte, Londra oggi è chiusa per festività, così come saranno chiusi anche gli indici americani per il Memorial Day. Milano, miglior piazza d'Europa, sta guadagnando oltre un punto percentuale. I titoli protagonisti della seduta: Salvatore Ferragamo più 4%, il titolo da sempre, da quando si è quotato, poi peraltro non moltissimo, gettonatissimo dagli investitori. Tutta in evidenza la galassia Fiat, Exor più 4%, Fiat SPA più 3%, perché il mercato ormai scommette sull'integrazione definitiva con Chrysler in tempi brevissimi. Mediolanum oggi molto bene, tutto il risparmio gestito, con Mediolanum che segna più 2,58, Azimut più 2,11, oltre 2 punti di rialzo anche per A2A e per il Banco Popolare. Il nostro ultimo collegamento non c'era nessun titolo negativo, adesso ce ne sono 3, perdono comunque poco. Saipem è meno 0,33%, Lottomatica meno 0,20%, Tenaris meno 0,06%. Direi che la borsa la possiamo lasciare subito. Andiamo al tema scelto per oggi per Salva Danaio. Probabilmente di questo argomento ce ne occuperemo almeno per 2 o 3 puntate. Andremo dritti alla scadenza del 17 giugno, che è quella appunto che riguarda quei contribuenti che l'IMU, ahimè, devono versarla. L'IMU? Per il momento è rimandata a settembre e, come tutti i rimandati, ancora in attesa di conoscere con precisione il proprio futuro. In molti tra coloro che si preparavano a versare l'acconto dell'imposta più discussa degli ultimi anni potranno beneficiare del rinvio al 16 settembre di questa prima rata. La sospensione avviene per effetto del decreto legge 54 del 2013, con cui il governo prende tempo impegnandosi a mettere a punto una riforma complessiva del fisco sugli immobili. Ma solo alcune categorie potranno tirare un sospiro di sollievo. Niente acconto per gli immobili che fungono da abitazione principale, quando cioè si possiede una sola casa, che è quella in cui si abita. La prima rata è sospesa anche per terreni agricoli e fabbricati rurali. E riescono a spuntarla anche gli istituti autonomi case popolari, che nelle scorse settimane avevano chiesto a gran voce di non essere accomunate ad imprese ed esercizi commerciali, per via della loro particolare funzione. Per capannoni, alberghi e negozi, infatti, non ci sono buone notizie. L'acconto va pagato ed entrano in vigore anche aumenti importanti rispetto all'anno scorso. L'imposta resta confermata anche per seconde case, case in affitto e per i cosiddetti edifici di pregio. E mentre molte aspettative vengono riposte nelle possibili novità che dovrebbero arrivare da Roma, i più scettici temono che non si farà che concentrare tutti i carichi fiscali nel prossimo autunno. Insomma, ci aspetta un autunno caldo dal punto di vista meteorologico, è molto probabile, dato questo inverno che invece ha trasformato completamente il mese di maggio. Non è detto che dal punto di vista meteo, appunto, i mesi autunnali saranno invece più caldi da altri punti di vista. Cristiano, stavo pensando a quando, mentre ascoltavo appunto la scheda, ma secondo te ci sono molti contribuenti che hanno la convinzione di non dover versare l'IMU, invece ancora non hanno magari ben capito la caratteristica del proprio immobile e rischiano di saltare questo appuntamento? Ma sicuramente un po' di incertezza ci sarà e un po' di errori ci saranno, perché è vero che la definizione di abitazione principale è rimasta sostanzialmente invariata dall'anno scorso, ma ti faccio un esempio soltanto. Quelle case che i comuni hanno assimilato all'abitazione principale, vale a dire quelle degli anziani o dei disabili ricoverati in un caso, oppure quelle dei residenti all'estero nell'altro caso, sono trattate come abitazione principale a condizione che ci sia la delibera del comune. Quindi bisogna andare a vedere se c'è la decisione locale, se per caso questa decisione locale non c'era nel 2012 ma magari è stata presa nei primi mesi del 2013 o viceversa, e capire se si rientra o meno. Quindi il perimetro dell'abitazione principale è definito per legge, poi però bisogna sempre declinarlo caso per caso, e qui qualche errore può anche essere certo, in agguato. Quindi, per essere ancora più pratici e concreti, qualora ci fosse un anziano in una casa di riposo, ha la titolarità di un'abitazione che è la sua prima abitazione, la sua unica casa, ma avendo trasferito appunto la sua residenza nella casa di riposo, teoricamente dovrebbe pagare l'IMU sulla prima casa, ma questo non dovrebbe succedere se il comune avesse deliberato che quella invece è la sua abitazione principale. Esatto, esatto, con un unico requisito ancora: tu dicevi giustamente, bisogna che abbia la residenza nell'istituto di cura, e la casa non deve essere affittata e neanche data in uso ad altri con un contratto registrato, insomma. Quindi insomma, non dare nulla per scontato, perché abbiamo capito sin dall'inizio che la materia IMU è un ginepraio per tutti i contribuenti, al punto che anche i CAF, i centri di assistenza fiscale, sono andati in confusione qualche settimana fa, anzi una decina di giorni fa, hanno fatto esplodere una vera e propria polemica che ha occupato tutte le pagine di tutti i giornali nello scorso weekend, non quello che abbiamo appena passato, quello precedente ancora, perché a quanto pare c'era un rischio che riguardava almeno 100.000 modelli 730, quelli all'interno dei quali i contribuenti interessati avevano chiesto praticamente di fare la compensazione fra i crediti IRPEF e la IMU stessa. Com'è finita, Cristiano, quella storia? La storia è finita che diciamo, chi ha già presentato il modello 730 e ha usato il credito, meglio ha chiesto di usare il credito IRPEF per compensare l'IMU, a questo punto, se si accorge di non dover più pagare l'IMU sull'abitazione principale, ha sostanzialmente due strade. O presenta... Allora, intanto gli viene restituita, molto banalmente? Allora, sicuramente recupererà il credito. Per recuperarlo ha due strade, diciamo. Può o presentare un modello integrativo 730, che è la cosa diciamo più rapida per ottenere il recupero dell'importo direttamente in busta paga. Oppure, in alternativa, può aspettare, vedere che cosa succederà da qui alla fine dell'estate, perché per adesso l'IMU è sospesa, quindi potrebbe scoprire magari di dover ancora pagare qualcosa, certo. E poi in un secondo tempo andarlo a recuperare l'anno a venire, e quindi con la prossima dichiarazione secondo dei redditi. Secondo te che cosa conviene di più fare? Ma diciamo recuperare il prima possibile? Direi di sì, direi di sì, è sicuramente la via più rapida. Tra l'altro, per presentare il modello integrativo 730 c'è tempo fino al 25 di ottobre, quindi sostanzialmente un certo margine davanti anche per vedere che cosa succede c'è. Non mi affretterei a farlo in tempi molto brevi, perché appunto per ora stiamo parlando di una sospensione dell'abitazione, dell'IMU sull'abitazione principale. Eventualmente per quei contribuenti che volessero presentare il modello integrativo, poi magari faremo un'ulteriore precisazione, se vi siete rivolti al sostituto d'imposta per la dichiarazione dei redditi, in questo caso il modello integrativo va presentato in altre sedi, poi ci andiamo. Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti, anche nell'ultima puntata riguardante questo argomento ci ha fatto compagnia. Oggi è il 27 maggio del 2013, quali sono in questo momento i dubbi più importanti, più corposi, che appunto attanagliano i contribuenti che state seguendo voi per quello che riguarda questa scadenza? Beh, sicuramente, come diceva Dell'Oste, è la verifica corretta del concetto di abitazione principale e delle assimilazioni che sono state in qualche modo messe in chiaro anche con la circolare 2DF del 23 maggio, quindi da poco. Le difficoltà che permangono sono, come dire, anche quelle, le verifiche, quindi i controlli di tutti i dati catastali per il limite delle pertinenze, che ricordiamo a tutti gli ascoltatori non possono essere più di 3 nelle categorie catastali C2 per soffitte, cantine o magazzini, C6 box auto e C7 tettoie. Ricordiamo altresì a tutti che queste sono, come dire, sempre il massimo, il numero 3 è il massimo applicabile alla cosiddetta abitazione principale, allorquando anche queste pertinenze sono accatastate nella stessa, non sono accatastate unitariamente, ma sono inserite all'interno della stessa unità immobiliare. In questo momento, diciamo così, che tutti ci vengono a chiedere quale aliquota applicare, quale aliquota verrà applicata, se quella migliorativa in qualche modo che qualche comune, pur molto pochi rispetto all'anno precedente, ha rivisto per le seconde abitazioni, oppure quella del 2012. In questo momento si aprono, come dire, si apre uno scenario nella quale la circolare 2DF che citavo poco fa mette appunto due regolette. Una sicuramente che, come diceva Cristiano Dell'Oste, la prima rata è sospesa anche per le abitazioni assimilate a quelle abitazione principale, e altresì che l'IMU può essere applicata anche con le aliquote del 2012. Seppur vero che a stretto rigore la circolare permette di pagare queste aliquote, diciamo così, del 2012 sino al 7 giugno, momento in cui attendiamo la conversione in legge del DL35, quello che potremmo dire, quello che ha sospeso, che ha, diciamo, lo sblocca così, debiti, lo sblocca crediti della pubblica, sì, debiti della pubblica amministrazione. Beh, comunque la circolare 2/DF/2013 diffusa dal Dipartimento Finanze appunto ha messo un po' di ordine, Cristiano. Allora, direi fino a un certo punto, non per voler essere critici a tutti i costi, però diciamo che il problema è un po' quello che sollevava adesso Mion, cioè in sostanza la circolare dice questo: fino al 7 giugno, data entro cui va convertito questo decreto di cui parlavamo, i contribuenti possono scegliere se pagare l'acconto con l'aliquota comunale decisa, diciamo, già nel 2012 o con l'eventuale aliquota già decisa dal comune nel 2013 nel caso in cui fosse migliore. In realtà pochi comuni hanno deciso e ancora meno hanno deciso al ribasso, però siccome i casi ci sono potrebbe darsi che in qualche caso sia più conveniente. Allora, questa decisione quindi può riguardare questa ristretta rosa di esatto, contribuenti. Pagare con l'aliquota 2013. Poi cosa succede? In teoria dall'8 giugno in poi non si dovrebbe più poter utilizzare l'aliquota del 2013, ma si dovrebbe usare solo quella del 2012. Allora è evidente dov'è che si crea il problema. Il problema è che può darsi benissimo che un CAF o un commercialista predisponga per un suo cliente un modello F24 bello pronto e compilato per pagare l'IMU magari il 2, il 3, il 4 di giugno e poi cosa succede? Che il cliente va magari a pagare il 13 o il 17 stesso, che è l'ultimo giorno, e allora che diciamo? Che quel modello F24 non funziona più? È evidente che qui c'è un po' un cortocircuito in quello che ci impone la circolare, ed è evidente, secondo me e secondo quello che abbiamo riportato oggi anche sul Sole 24 Ore, che non si potranno applicare le sanzioni a un contribuente che va a pagare all'ultimo giorno con un F24 redatto magari 10 giorni prima con le aliquote 2013. Proprio per la grande incertezza normativa che si è creata, bisognerà in qualche modo far salvi anche coloro che hanno scelto l'aliquota sbagliata magari, ma decisa comunque dal proprio comune. Ma tra l'altro i margini di errore quanto potranno essere ampi? Ma diciamo che non sono così bassi, stretti, non sono così stretti, perché in alcuni casi potrebbero esserci delle agevolazioni specifiche che il comune aveva deciso magari solo nel 2012 e non nel 2013, o viceversa, pensiamo per esempio ai fabbricati produttivi. Mm-hmm. Poi è chiaro che va anche fatto un altro discorso, che quello che io risparmio in acconto a parità di aliquote poi lo devo pagare in saldo. Certo. Però potrebbe essere anche conveniente per chi ha problemi di liquidità. Quindi o per insomma chi spera tagliamo in una le revisione. Manine al commercialista che ci compila l'F24 prima del 7 giugno, aspettiamo dopo? Ma no, il suggerimento più di buonsenso qual è allora? No, io direi che nella maggior parte dei casi risulterà conveniente usare le aliquote 2012 e problemi non ce ne sono. Se poi scopriamo che ci conviene e parecchio usare quelle 2013, se vogliamo stare assolutamente tranquilli, andiamo alla cassa, diciamo, il 6 o il 7 di giugno. A meno che, insomma, si vada alla cassa anche dopo e poi si invochi quella clausola dello statuto del contribuente che dice che se la norma è incerta tu non mi puoi sanzionare. Va bene, con tutte le volte che è stato violato lo statuto dei diritti del contribuente quest'anno, figuriamoci se. Vabbè. Siamo ritornati con Salva Danaio col tema di questa mattina estremamente popolare, tanto che probabilmente faremo qualche puntata aggiuntiva su questo argomento l'IMU. Dopo aver raccontato più volte tutta la rosa dei contribuenti esclusi dal versamento dell'acconto entro il 17 giugno, per la verità questa mattina vorremmo focalizzarci su chi invece questo acconto deve pagarlo e con quali aliquote, peraltro, perché abbiamo spiegato anche prima nella prima parte della trasmissione, ci sono stati anche dei cambiamenti relativamente appunto alle aliquote applicate dai vari comuni, con il rischio addirittura che si potrà generare anche un po' di confusione tra i contribuenti stessi a seconda della scadenza del momento in cui andranno a pagarla. 800240024 il numero verde per le vostre domande, ci state scrivendo e telefonando in tanti. Con noi oggi Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore e Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti. Andiamo subito ai casi degli ascoltatori. Giacomo da Genova è pronto da un po', buongiorno. Giacomo? Giacomo sta chiacchierando. Giacomo si è distratto con qualcun altro. Andiamo a Lucio da Roma. Lucio, buongiorno. Buongiorno, la mia domanda è molto semplice. Io devo pagare il 50% dell'IMU seconda casa entro il 17 giugno. Volevo sapere se questo 50% va al comune, quindi al 39-18, o c'è la quota anche dello Stato? Ah, Lucio, 39-18 è il codice tributo? Lei è precisissimo, sì. Giusto? Grazie, allora vado a Mirko Mion, se ci può aiutare. Buongiorno, sì, buongiorno a Lucio e ribongiorno a Mirko, eccoci qua. Allora, cosa deve fare l'ascoltatore? La risposta è, la risposta è affermativa, nel senso che essendo seconda casa tutto il tributo verrà versato al comune, in quanto soltanto i fabbricati accatastati nella categoria D saranno obbligati al versamento allo Stato, con chiaramente in questo momento qui con le condizioni, come abbiamo detto prima, un po' mixate, dell'aumento del coefficiente da 60 a 65, quindi questo aumento dell'8,33, ma con la possibilità dell'utilizzo, secondo della convenienza, delle aliquote 2012-2013. Il signor Lucio dovrà quindi versare il suo codice tributo, di cui è stato molto preciso nell'affermazione. Il 39-18? Sì. Il 39-18 al comune, sì. Tra l'altro, proprio a proposito del codice tributo, mi stava raccontando Cristiano Dell'Oste, microfoni spenti, che per esempio per gli immobili d'impresa questi codici sono arrivati recentissimamente, quindi insomma... Sì, praticamente sono arrivati 6 giorni fa, perché proprio come diceva adesso Mion, gli immobili produttivi, quelli diciamo accatastati nelle categorie del gruppo D, in catasto sostanzialmente, su questi fabbricati bisogna dividere ancora, come si faceva l'anno scorso, la quota di gettito tra Stato e Comune. Quindi a quali ci riferiamo, per esempio a negozi, alberghi? No, attenzione, allora ecco. Il gruppo D ci stanno ad esempio i D1, che sono sostanzialmente i capannoni, poi ci sono gli alberghi, ci sono le cliniche, gli ospedali privati, ci sono i cinema, i teatri, sostanzialmente anche banche e assicurazioni, che sono il gruppo D5, per il quale tra l'altro molti comuni hanno previsto delle maggiorazioni di aliquota. Quindi diciamo sono i fabbricati sostanzialmente produttivi. I negozi e gli uffici sono fuori da questo campo, perché sono rispettivamente in categoria C e in A10. Eccolo qua, infatti. Allora, eccolo qua. Sì, Mirko, Mion. No, volevo dire che la circolare 2DF, così a maggior precisione, quella incriminata questa mattina, sì, e fa eccezione proprio per tutti quegli immobili accatastati nella classe D5, quindi in qualche modo quello che si pone nell'immaginario collettivo, le banche e le assicurazioni non potranno beneficiare di questa eventuale, come dire, convenienza nel calcolo dell'imposta, mm-hmm, se calcolata sull'aliquota 2012 o 2013. Allora, chi andiamo adesso? Giacomo da Genova, che abbiamo ripescato all'800240024. Giacomo, buongiorno. Sì, buongiorno cari. Dunque, il mio caso è questo: io sono proprietario della casa nella quale abita mia mamma, che l'avevo comprata prima di sposarmi e l'ho data a mia mamma in comodato d'uso. Sì. Nel frattempo ho acquistato la casa di mia suocera, che è ancora in vita e abita in questa casa qua, e l'ho acquistata come nuda proprietà. Vorrei sapere se devo pagare l'IMU, se prima casa o seconda casa. Allora Giacomo, aspetti lì, perché magari se abbiamo bisogno di ulteriori chiarimenti relativamente alla sua situazione gli richiediamo in diretta. Cristiano, cominciamo con te. Sì. Ma il caso sembra chiaro, se è così. Allora, tra l'altro ci consente anche di capire, di chiarire meglio due situazioni abbastanza comuni. Dunque, la casa che il nostro ascoltatore ha dato incomodato alla mamma di fatto per lui risulta seconda casa, mm-hmm, dal punto di vista dell'IMU, e quindi dovrà pagare come abitazione a disposizione, o meglio, se il comune avesse previsto qualche aliquota specifica per i comodati, potrebbe anche avere diritto a uno sconto. Quindi prima cosa andarsi ad informare, appunto, esatto, se il comune avesse intrapreso, esatto, un'iniziativa specifica. Il comune non ha il potere, come succedeva con l'ICI, di parificare queste situazioni all'abitazione principale, ma può prevedere qualche sconto. Mm-hmm. Invece sull'altra casa, quella per che cui ha comprato da sua suocera con nuda proprietà. Esatto, mm-hmm, in questo caso, siccome l'ascoltatore ha solo la nuda proprietà, mentre pare di capire l'usufrutto ce l'ha la suocera, mm-hmm, a questo punto a dover pagare l'IMU è la suocera. Dopodiché però, se la suocera ha anche la residenza, allora per la suocera quella diventa abitazione principale, quindi lei non pagherà nulla. Mm-hmm. Comunque diciamo il soggetto passivo tecnicamente, cioè colui che deve capire se pagare o meno l'imposta, non è l'ascoltatore ma è la suocera che ha l'usufrutto. Molto bene, andiamo a Mariangela dalla provincia di Asti, che ci permette di introdurre il tema anche qui molto variegato ed articolato dei terreni agricoli. Mariangela, buongiorno. Quindi Mion, si prepari. No, il mio problema è un po' più semplice del caso precedente, credo. Allora, io possiedo dei terreni agricoli, però volevo sapere cosa si intende per terreno agricolo, perché io non lo coltivo personalmente. Io pago sempre l'IMU, ho sempre pagato l'IMU sul reddito domenicale. Sì. E in questo caso sono esonerata del pagamento dell'acconto. Allora Mariangela, aspetti lì che sentiamo da Mirko Mion, un noto esperto di terreni agricoli, naturalmente. No, allora diciamo che teoricamente come geometri voi vi occupate di mura e qualcos'altro, insomma il terreno agricolo, sì, vi affascina un po' meno? Ci affascina un po' meno. Però insomma intanto i terreni agricoli sono sospesi dall'acconto, ma tutti? Diciamo che il principio è quello che il terreno agricolo sia adibito e sia utilizzato da un cosiddetto imprenditore agricolo, come definito nell'articolo 2135 del Codice Civile, quindi se rientra in questa tipologia rientrerà anche nelle esenzioni, in questo momento nella sospensione del pagamento. Quindi non c'entra nulla il fatto che lei li abbia affittati, che questi siano adibiti appunto a coltivazione, che ci siano delle grandi appunto devono distese. Devono essere condotti e utilizzate ai fini, quindi quello che veniva definito da un coltivatore diretto. Ah, ecco, perché se non fossero stati affittati e non fossero stati adibiti a coltivazione ci sarebbe stato un trattamento diverso? Beh, questo dipende, perché comunque anche nell'applicazione precedente c'erano determinate agevolazioni legate al fatto, diciamo, ad una questione geografica dove era insediato il terreno agricolo, quindi se rientrava all'interno di comunità montane o all'interno di un comune iscritto nell'elenco dei cosiddetti, diciamo, di una fascia protetta per i terreni agricoli. In questo caso sono tutti esentati se hanno come finalità l'utilizzo appunto dell'utilizzo agricolo. Nessuna esenzione invece, magari ricordiamolo così tanto per farci magari due sorrisi, nessuna esenzione per le abitazioni di tipo signorile, per quelle in villa e anche per chi come te Cristiano abita in un castello. Sì, diciamo a parte il mio castello è tutto giusto. Nel senso perfetto, che, così almeno ce lo siamo ricordati. Però insomma dobbiamo fare delle verifiche anche per questo ambito? Bisogna fare una verifica più che altro per controllare la tipologia catastale, la categoria. Di fatto quello che viene chiamato abitazione di pregio sono tre categorie, che sono A1, A8 e A9, così come le ha definite il decreto legge che ha sospeso la rata dell'IMU. Tra l'altro possiamo anche dire che all'atto pratico si tratta veramente di poche case, perché sono meno di 100.000 unità immobiliari abitative su più di 30 milioni, quindi poche. Allora c'è un ascoltatore, Giuseppe, che ci scrive spessissimo, che ci chiede quali siano i codici tributo per il modello F24 per l'IMU sulle seconde case. A parte che gli risponderemo, ma questa domanda per la verità mi fa sollevare, Cristiano, la questione di cui discutevamo anche in questo caso a microfoni spenti: tutti quei contribuenti che l'IMU se la calcolano da soli, sono tanti? Diciamo di sì, nonostante la complessità della faccenda. Diciamo di sì, perché con l'IMU in realtà la complessità diventa ancora più grave, perché diversamente da altri tributi è un tributo che molti proprietari calcolano da sé, e quindi qui servirebbe semmai uno sforzo di semplificazione da parte del legislatore, non di complicazione, perché finché si va a toccare l'IRPEF si tocca un tributo che la maggior parte di coloro che la pagano si trova in qualche modo già trattenuto in busta paga. Se parliamo dell'IMU parliamo di un tributo che viene liquidato direttamente da quasi tutti i contribuenti e calcolato direttamente da molti di loro. Mion è d'accordo con questa visione. Tra l'altro non abbiamo spiegato prima che, a proposito della questione del modello integrativo, per chi avesse troppo frettolosamente compensato i crediti IRPEF appunto con l'IMU di cui adesso non deve versare l'acconto, non deve più rivolgersi al suo sostituto d'imposta qualora in una prima battuta appunto abbia fatto la dichiarazione dei redditi con questa. Ma il modello integrativo dove deve presentarlo, Mion? Beh sì, esattamente. Diciamo che intanto in premessa il modello 730 può essere presentato o ai sostituti d'imposta, quindi al proprio datore di lavoro nella fattispecie, oppure può essere presentato ai cosiddetti CAF o ai professionisti abilitati. C'era una deadline, quindi c'era un obbligo di presentazione ai sostituti d'imposta inizialmente il 30 aprile, successivamente è stato spostato al 16 maggio, mentre i CAF attualmente ancora al 31 di maggio. Siamo in attesa anche qui di un decreto che sposti, che poi di fatto anche negli altri anni, due anni precedenti a questo è stato spostato al 20 di giugno, quindi la presentazione, dicevo, del 16 maggio di fatto non può più essere ricontrattata, come può essere fatta invece presso i CAF fino al 31 di maggio attualmente. Uh-huh. Nel caso di errore, laddove i contribuenti siano avvalsi di questo quadro I del modello 730 per poter utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi, dovrà necessariamente presentare il modello 730 integrativo entro il 25 di ottobre presso un CAF o un professionista abilitato. Quindi colui che l'ha presentato entro il 16 maggio di fatto sarà obbligato a presentarsi presso uno sportello diverso da quello, certo, a cui ha presentato inizialmente il modello 730. Altre domande sull'IMU: la scadenza del 17 giugno per chi l'acconto deve versarlo, i contribuenti sono tanti, nonostante ci sia stata appunto la sospensione per molti. Per la verità la rosa degli esclusi non è totale, ma anzi ci sono molte tipologie appunto di immobili, di edifici che in realtà questa scadenza devono rispettarla, e qualche volta anche con un acconto piuttosto salato. Per la verità, a proposito di conti salati, Cristiano, prima di sentire gli altri ascoltatori appunto, dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali per cui la prima rata appunto in scadenza il 17 giugno è stata sospesa. Questo versamento rischia di essere rimandato, ma è vero che per questa tipologia appunto di proprietà immobiliari, non immobiliari, proprietà, certo, appunto in realtà in autunno rischia di arrivare una stangata, e perché? Ma diciamo questo, che finora, adesso noi parliamo giustamente di sospensione dell'IMU come se fosse un'esenzione, ma non è detto che sia così, infatti. Perché il decreto messo a punto dal governo prevede una clausola di salvaguardia abbastanza chiara, cioè dice in pratica che il pagamento dell'IMU per tutti coloro che non vanno alla cassa entro il 17 giugno è rinviato al 16 di settembre, a meno che entro il 31 di agosto non vengano emanati provvedimenti che ridisegnano la fiscalità immobiliare o quantomeno, anche se non la ridisegnano del tutto, chiariscono cosa succede a coloro che hanno avuto la sospensione. Se questi provvedimenti non arriveranno, al 16 di settembre si andrà alla cassa. Dopodiché, anche qualora ci sia un ridisegno complessivo dell'IMU, non è scontato che tutti coloro che non pagano adesso poi non pagheranno più. Certo, la sospensione genera nei contribuenti la legittima aspettativa di non dover più andare alla cassa, però è pur vero che a regime l'azzeramento dell'IMU sull'abitazione principale costa circa 4 miliardi di euro all'anno, che non sono pochissimi considerato che il governo deve trovare, o almeno ha detto di voler trovare, anche le risorse per prorogare le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. Per non far fare il nuovo scatto all'IVA che passerebbe al 22% dal 1 di luglio, ricordiamolo, e quindi servono comunque molte risorse, perciò non è escluso che nel bilanciamento alcune tipologie di case, magari quelle dal valore catastale più elevato, o magari alcune tipologie di contribuenti, quelli dal reddito più elevato, si trovino comunque a dover pagare qualche cosa. Allora, abbiamo adesso 5 minuti prima della chiusura, rispondiamo tra poco ad Armando D'Alecco, cercherò di rispondere molto rapidamente alle tante domande che ci arrivano anche all'SMS, colgo l'occasione per precettare Cristiano e Mirko Mion anche per lunedì prossimo, perché direi che queste puntate di chiarimento dobbiamo continuare a farle appunto fino almeno a metà giugno. Poi tra l'altro, siccome il 18 giugno scatta anche la riforma del condominio, vi anticipo già che da settimana prossima faremo anche 3 o 4 puntate in vista di questa scadenza, quindi noi abbiamo tutte puntate blindate, IMU, lavoro, condominio, per cui insomma speriamo di non annoiarvi troppo, ma questa è la nostra vita, per cui è bene che siamo informati al meglio su tutto. Armando D'Alecco, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno. 2 anni fa ho acquistato un rustico e con concessione edilizia ho demolito e ho ricostruito. Siamo arrivati al tetto. Non c'ho né piastrelle, non c'ho nulla dentro, non c'ho luce, acqua, gas, eccetera. E non c'è nessuna abitabilità, insomma. E nel contempo ho preso in affitto un appartamento in attesa di finire la ristrutturazione. Il comune mi richiede l'IMU come seconda casa. Lei dice, è giusto o no? Armando, sentiamo Mirko Mion che cosa ci dice. Ecco, non abbiamo mai affrontato effettivamente questa relazione tra come dire, l'abitabilità di un edificio e il versamento di tutte le imposte annesse e connesse, in questo caso l'IMU. Mion. Allora, io ritengo che se non c'è l'abitabilità, quindi non c'è stata, siamo di fronte ad una situazione nella quale l'IMU non deve essere versata. Nella fattispecie potremmo omologare questa abitazione ad un'abitazione già esistente e fosse stata anche accatastata, gli fosse stata data l'abitabilità, fosse stata in un secondo tempo oggetto di ristrutturazione completa, poteva essere resa, come dire, anche per soltanto un certo periodo non abitabile e attraverso la perizia depositata in comune di un professionista vedersi sospeso il pagamento di questa dell'imposta. Quindi io non ritengo assolutamente legittimo da parte del comune richiedere all'ascoltatore il pagamento del addirittura come seconda casa. Cristiano, addirittura come seconda casa, beh, chiaramente qui non coinciderebbe poi nella residenza, nel domicilio, quindi verrebbe meno al principio. E quindi che cosa fa Armando a questo punto? Deve scatenare un conflitto, un contenzioso con la propria amministrazione comunale, perché se loro glielo chiedono... Ma diciamo che la prima cosa che si può consigliare, come diceva Mion, è di verificare con un professionista, nel caso specifico un geometra o comunque insomma un altro professionista tecnico, lo stato effettivo, perché poi lavori in corso su un'abitazione può voler dire molte cose. Nel caso specifico si verifica lo stato dei luoghi e a seconda del grado di, diciamo, di avanzamento dei lavori potrà o chiedere che l'abitazione sia considerata inagibile e quindi pagare l'IMU sul 50% della base imponibile, oppure addirittura considerare lo stato dell'edificio come non ancora a livello di edificio, cioè soltanto uno scheletro, mm-hmm. e in quel caso lì al massimo il comune potrà chiedere di essere pagato sul valore dell'area fabbricabile. Però, insomma, siamo come tutte, soltanto se fosse un terreno. Nella rosa delle ipotesi che facciamo noi. Siamo nella rosa delle ipotesi, anche perché tra l'altro sul far pagare l'area fabbricabile nel caso di edifici crollati o in fase di costruzione, l'orientamento dei comuni, anche l'abbiamo visto l'anno scorso quando abbiamo monitorato tutte le delibere, non è ancora uniforme, nel senso che ci sono comuni che lo dicono e lo mettono nero su bianco nel proprio regolamento, ci sono altri che invece hanno un atteggiamento un po' meno deciso, proprio perché l'imposta non ha sempre un'applicazione così chiara. Allora, tra l'altro, un minuto e mezzo, ma devo assolutamente dedicare una parentesi anche alle zone terremotate, perché ci stanno scrivendo molti ascoltatori che pure brancolano nel buio e non sanno che cosa devono fare con questa scadenza. Gianfranco da Modena, rapidissimo, la ringrazio perché poi devo chiudere. Buongiorno. Rapidissimo per quel che si può. Grazie. Io ho un capannone che era inagibile, io ho avuto la disgrazia di comprare una piccola parte, è il comune, siamo ancora in lite perché vuole 10 per intero. Io mi sono fatto fare dal comune stesso un certificato in cui si dichiara che il comune dice che lì non si può fare niente, mentre prima ci hanno dato una circolare in cui si diceva che, essendo che quel capannone lì fa parte di un piano di sviluppo, allora loro pretendono per intero, però il piano di sviluppo è andato a gamba all'alto. Certo. All'aria. Gianfranco, guardi, devo chiudere, 10 secondi. Cristiano, che ne pensi di questo caso? Dico che dobbiamo conoscere un po' meglio i dettagli. Allora, magari se ci scrive. Gianfranco, ci scriva, perché ci interessa approfondire un po' meglio questa situazione. Magari Cristiano gli dedicherà anche qualche bella pagina delle Sole 24 Ore. Allora, Mion, c'è lunedì prossimo con noi? Certamente. Molto bene, segni in agenda, così come segnerà anche Cristiano Dell'Oste. A tutti grazie per essere stati con noi. Continuate a scriverci, perché gli amici di Agefis comunque ci rispondono anche in privato. Buona giornata a tutti, a domani. Salva Danaio.